Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. 6 gennaio, befane in volo sui cieli italiani, o meglio befane che sono state in volo la notte scorsa, e speriamo che abbiano portato tanti, tanti doni, tutti quelli che si meritano i bambini d'Italia. Noi siamo sempre qui in diretta a Cuore Denari, anche oggi regolari fino alle 12, regolari più o meno, perché ancora la mia befana preferita, Nicoletta, non è tornata, ma torna lunedì, e quindi l'accoppiata di befane si riproporrà, regolarizzerà appunto a partire dall'inizio della prossima settimana. Voi raccontateci subito se la befana è passata anche a casa vostra, cosa ha portato, c'è una bella calza, più di una, cosa contiene, raccontatecelo subito chiamandoci all'800 24 00 24, magari proprio insieme, se volete, ai vostri bambini. Ci potete anche scrivere un messaggio, mandateci una foto della vostra calza o di quella che la befana ha portato appunto alla vostra famiglia con WhatsApp al 349 238 6666. E mentre aspettiamo i vostri racconti, la conferma che la tradizione tutta italiana della befana resiste, resiste. Questa conferma arriva dai numeri, precisamente i dati di Confesercenti. Quest'anno, oltre a quella che ha portato la befana, molti acquisti anche di tipiche calze con i dolci contenuti sono stati circa 16,8 milioni appunto gli italiani che hanno acquistato la tipica calza della befana. Un numero in crescita di almeno 800.000 persone rispetto all'anno scorso. Diminuisce però la spesa media per le calzette. Per l'Epifania 2017 il budget stanziato per i dolci ai bambini è di 58 euro in media a persona. Beh, non è neanche poco per la verità. E comunque il 9% in media in meno, secondo appunto i commercianti, rispetto all'anno precedente. Complessivamente il giro d'affari si assesterà sui 980 milioni di euro in questa giornata, circa 45 milioni in meno rispetto al 2015. E comunque sono molte le befane che volano, speriamo senza inconvenienti e senza ritardi. Perché lo dico? Perché noi parleremo oggi, nella seconda parte di Cuore e Denari, anche di disagi aerei, lasciando da parte le scope naturalmente, a partire dalle 11. Se vi è capitato di prendere un aereo in queste vacanze, raccontateci come andate, se gli orari sono stati rispettati. È notizia di questi giorni che l'aeroporto di Orio al Serio sarebbe uno dei più puntuali al mondo, di sicuro l'eccellenza italiana. Lo dice una grande indagine internazionale, noi ve la racconteremo più tardi nel dettaglio. Poi, non a caso, vi ho chiesto di raccontarmi cosa c'è nella vostra calza, perché dedicheremo appunto alle dottore, con il dottor Attilio Speciani, uno spazio alle prelibatezze tanto attese di cui le nostre calze vengono riempite. Se voi avete trovato il carbone, però, ce lo potete raccontare lo stesso, perché anche in questo caso possiamo darvi qualche indicazione sulle proprietà del tipo di carbone nutrizionale, ovviamente, che si trova nella calza. Per il carbone dolce chiederemo appunto consigli al dottor Speciani, mentre per quello vero non ci sono buone notizie, perché le consegne di carbone quest'anno, e mi riferisco alla materia prima, rischiano di costare un occhio dalla testa. La colpa è del mercato delle materie prime, dove i prezzi tornano a salire, e proprio è il carbone a surclassare le quotazioni di tutte le altre commodities, anche quelle particolarmente scintillanti, oro e diamanti. Il carbone ha avuto un rialzo lo scorso anno delle quotazioni, pensate, del 300%. Ma a proposito di quotazioni e mercati, partiamo con le nostre borse, con la nostra rassegna stampa di oggi. Allora, seduta prevalentemente negativa fra le borse europee, anche oggi sono tutte regolarmente aperte, Piazza Affari, anche Milano è aperta, anche se i volumi sono sensibilmente ridotti, proprio perché ancora qua si lavora un po' a mezzo regime festivo tra gli operatori finanziari. Da lunedì tutto rientrerà regolarmente nella norma. Intanto per Milano però a meno 0,09%, Milano era partita con un rialzo dello 0,23%, quindi prova proprio a consolidare i rialzi che ha messo a segno in questa prima parte del 2017, che risulta essere decisamente positivo per Milano. Però il 2016 è stato negativo, lo abbiamo ricordato più volte. Milano è stata la peggior piazza d'Europa, archiviato lo scorso anno con un bilancio negativo del 10%, invece da inizio anno prova a recuperare. Perdono un po' di più le altre piazze finanziarie: Parigi meno 0,4, Francoforte meno 0,26, Londra è sulla parità. Stamattina Tokyo ha chiuso con un ribasso dello 0,34% e è andata in maniera contrastata ieri sera a Wall Street, perché il Dow Jones e lo Standard & Poor's hanno chiuso in leggero calo. Il Nasdaq invece ha saputo raggiungere un nuovo livello record. I fari americani oggi sono puntati sul rapporto sull'occupazione di dicembre, e ricordando appunto che ieri dal mercato del lavoro sono arrivati dei segnali misti, perché le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono scese, pensate, ai minimi da quasi 43 anni a questa parte, però nel settore privato a dicembre sono stati creati meno posti del previsto, quindi un quadro chiaroscuro che poi si è riflesso anche in borsa. E per quello che riguarda la seduta di oggi, ancora una volta teniamo sotto i riflettori anche il mercato valutario. L'euro ancora sopra quota 1,06 sul dollaro, ma soprattutto molto movimento tra le divise internazionali per la decisione che ha preso la Cina nelle ultime ore, che ha alzato dello 0,9% il tasso di riferimento dello yuan rispetto al dollaro. È il più forte aumento giornaliero degli ultimi 11 anni. Un segnale, dicono gli operatori, degli sforzi che sta facendo Pechino per arginare il deprezzamento della propria divisa. Sicuramente non mancheremo di commentare questo dato anche stasera a Focus Economia. Intanto un'occhiata ai temi di Piazza Affari. Sono gli stessi da molti giorni a questa parte, quindi poche novità. Continua a correre il nuovo banco BPM, anche oggi più 3%. Ricordo ancora che è la nuova banca nata dall'integrazione operativa dal 1 gennaio di quest'anno tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano. Bene Fiat Chrysler, più 3%. Il gruppo sta ricevendo molte raccomandazioni positive da parte degli analisti finanziari, da parte di molte case di investimento. Sono state apprezzate anche le novità presentate appunto negli Stati Uniti dove continuano ad imperversare le dichiarazioni di Donald Trump. L'ultima peraltro si è riferita anche alla casa automobilistica Toyota, e dopo aver bastonato nei giorni scorsi la Ford, General Motors, insomma lui pretende che tutte le case automobilistiche producano e costruiscano negli Stati Uniti e non delocalizzino da nessuna parte, in particolar modo in Messico. A Piazza Affari sempre stamattina tornano gli acquisti sul lusso, sulla moda, ancora Salvatore Ferragamo in evidenza, più 1,85%, questa mattina bene anche i piumini di Moncler, più 1,29%. Che abbiamo invece in negativo ancora STM, meno 2,40%, Saipem, meno 2,15%, 15, Poste Italiane meno 1,25, Popolare dell'Emilia Romagna meno 1,21, un calo di oltre un punto anche per Terna Luxottica meno 0,8%, per A2A e UbiBanca. Allora, andiamo adesso invece ad un piccolo approfondimento, perché qua vale la pena segnalare quali sono, tra le tante, alcune delle conseguenze del maltempo e del freddo che stanno riprendendo ad imperversare in questi giorni. Allora, intanto tutto nella norma, è gennaio e quindi non è che possiamo proprio aspettarci che ci siano delle temperature tropicali in questo momento dell'anno. Arriveranno anche ad essere un po' più basse prossimamente. Questi primi 15 giorni di gennaio saranno contraddistinti appunto per temperature ben al di sotto dello zero, ma il tema è che si stanno già creando le prime conseguenze negative per i prezzi dei prodotti ortofrutticoli. Ieri la stampa segnalava delle situazioni molto evidenti, soprattutto nel sud Italia, soprattutto in Sicilia. L'andamento dei prezzi in questa fase della raccolta è inevitabilmente legato alle condizioni climatiche. Incidono le temperature molto rigide, specie durante la notte, e i pochissimi, peraltro, ortaggi prodotti, complice anche il calo della produzione, appunto, ne risentono in termini di quotazione. Allora, cosa succede intanto a cavoli, verze, cicorie, radicchio e broccoli? Cosa succede fra i produttori, i coltivatori, e poi cosa succede anche sulla nostra tavola? Ne parliamo stamattina con Giorgio Mercuri, presidente della delle cooperative agroalimentari, presidente foggiano, peraltro imprenditore agricolo che guida una cooperativa ortofrutticola specializzata proprio in ortaggi. Direi la persona giusta al momento giusto. Presidente Mercuri, buongiorno, buona Epifania, buongiorno anche a voi, lei. Buongiorno. Grazie per la sua disponibilità questa mattina, peraltro l'abbiamo chiamato proprio pochi minuti fa quando avevo notato che tra appunto le agenzie si cominciava ad evidenziare tale questione. Presidente Mercuri, ma insomma è tutto nella norma quello che sta accadendo? C'è qualcosa anche di anomalo rispetto alle condizioni climatiche e ai prezzi che già gli ortaggi stanno registrando? Innanzitutto ci siamo svegliati questa mattina con un dono della Befana, che è sicuramente questo territorio innevato in tutta la provincia di Foggia, ma credo che riguarda un po' tutto il mezzogiorno d'Italia. Siamo nella norma per quello che riguarda le temperature, non siamo nella norma rispetto a quello che è avvenuto in questa stagione, perché siamo passati da temperature elevate di 10 giorni fa a un calo drastico delle temperature che si sta concludendo con questo ulteriore abbassamento, addirittura scendendo sotto lo zero. Questo naturalmente ha provocato già da qualche giorno un calo forte delle produzioni, le verdure risentono molto, tantissimo del calo delle temperature, e quindi riduzione della produzione, i consumi rimangono uguali ed è chiaro che c'è un aumento dei prezzi. È anche vero che con queste temperature noi avremo grossi danni su alcune colture in particolare, certamente verrà meno la presenza di carciofo sui mercati, verrà meno la presenza di finocchio, perché sono colture che appena si scende sotto lo zero si hanno danni irreparabili. Quindi state già comunque registrando queste condizioni di danneggiamento a causa del maltempo per alcune tipologie di colture, quindi ce lo conferma, Presidente? Certo, è già da qualche giorno che si sono già ridotte le rese per ettaro, per cui broccolo, cavolfiore, ma tutte quelle che erano le brassiche, c'era un forte calo di produzione. È chiaro che quando siamo scesi sotto lo zero abbiamo avuto proprio danni irreparabili per quanto riguarda il finocchio, che ormai è distrutto, e per quanto riguarda il carciofo, che ormai è danneggiato fortemente. Quindi sono produzioni che non troveremo più su questo territorio e che naturalmente verranno tolte anche dallo scaffale. Ecco, e se le dovessimo trovare sullo scaffale, Presidente, perché arrivano da quali territori? No, perché qua dobbiamo anche un po' sollevare magari anche questa una tipologia di problema di questo tipo, appunto, di problemi di questo tipo. Ma certamente per quanto riguarda il carciofo, fra qualche giorno ci troveremo carciofi egiziani, carciofi di altri paesi, e quindi non più prodotto italiano. E per quanto riguarda il finocchio invece abbiamo altre aree del nostro territorio nazionale che possono andare in produzione, arrivano un po' più in ritardo ma comunque sono in produzione. E per quanto riguarda broccoli, cavolfiore e altre brassiche, naturalmente dovremo attendere che passano queste temperature per capire se ci sono danni anche lì irreversibili oppure c'è soltanto un ritardo nella maturazione del prodotto e quindi nella produzione. Ci dobbiamo aspettare sicuramente i prossimi 20 giorni con un calo della presenza di verdure sul mercato e naturalmente con prezzi che aumenteranno certamente, ma perché? Proprio perché c'è pochissimo prodotto. Fino a quanto dobbiamo aspettarci degli aumenti di prezzo? Mediamente in questa stagione, Presidente, un chilo di cavolfiore, di verza, di cicoria, quanto costano, quanto dovrebbero costare? Naturalmente mi riferisco al prodotto che il consumatore trova al mercato, ossia che si rifornisca naturalmente direttamente da un agricoltore oppure che si rifornisca al supermercato. Appunto, secondo lei che sfasamento di prezzo registreremo? Ma certamente avremo un aumento almeno del 30% sugli scaffali. Per quanto riguarda l'azienda agricola, in realtà ne risente quel 30%, non lo recupero assolutamente, ma è dovuto a un fatto proprio di risposta del mercato. Quando abbiamo queste difficoltà il produttore non porta a casa nulla, perché sostanzialmente aumentano le attività in campagna per la raccolta del prodotto, c'è più disagio, c'è più costo di nella raccolta, ma soprattutto c'è anche del danno e quindi si riducono le produzioni, le rese medie per ettaro. È soltanto, tra virgolette, un danno che avviene nelle tasche del consumatore, che paga qualcosa in più, ma che in realtà poi non viene riportato nelle tasche degli agricoltori. Certo, Presidente, un'ultima domanda, poi la salutiamo. Negli ultimi anni i cambiamenti climatici che si sono manifestati sono stati molti e soprattutto ci sono ripetuti sfasamenti stagionali, lo dice anche questa mattina un comunicato della Coldiretti, e di conseguenza sono condizioni che si ripercuotono con effetti pesanti sull'agricoltura italiana. Detto questo, non vi potete proteggere in nessun modo, nel senso che mi rendo conto che magari una temperatura molto rigida in alcune zone del meridione è un evento anche abbastanza disatteso, ma non possiamo neanche considerarlo del tutto eccezionale e straordinario. L'agricoltura non si può proteggere in nessun modo? L'agricoltura purtroppo è un'attività, l'ortofrutta, diciamo, sì. Dice tutto. L'abbiamo visto anche in Sicilia in questi giorni, pur avendo in Sicilia delle strutture coperte, quindi con dei tunnel, delle serre, anche lì quando le temperature scendono notevolmente non si riesce a gestire, quindi abbiamo soltanto un aumento dei costi di produzione, ma poi sostanzialmente non riusciamo a produrre prodotti con le stesse quantità che facciamo quando le temperature sono normali. Ha detto bene, stiamo vivendo un periodo difficile perché non abbiamo più le stagioni, passiamo da alte a basse temperature in momenti molto brevi e questo naturalmente non ci mette in condizione di poter tutelarci. È chiaro, c'è un effetto ambiente su cui naturalmente un po' tutti dobbiamo stare più attenti anche per il prossimo futuro. Un consiglio a quei consumatori che comunque andranno alla ricerca in questi giorni dell'ortaggio di stagione: per le condizioni climatiche che abbiamo appena raccontato si troveranno questi ortaggi di stagione con difficoltà in questo momento, ma se i banchi del supermercato ne dovessero essere pieni, due suggerimenti appunto ai consumatori: di controllare l'etichetta e la provenienza, Presidente, senza naturalmente demonizzare nulla, però ecco due consigli. Io dico sempre, allora, l'ortofrutta a differenza di altri prodotti è già tracciata da tanti anni e l'origine è obbligatoria in etichetta, per cui attenti a quello che acquistate, controllate sempre l'origine del prodotto e soprattutto controllate che ci sia l'origine sul prodotto, perché troppo spesso qualcuno dimentica di metterlo, quindi chiedete questo. Per quanto riguarda, è chiaro, non cercate prodotto che non c'è, perché cercare il prodotto che non c'è significa soltanto innalzare i prezzi. Abbiate anche la capacità di valutare che in questo momento è tutto più difficile ed è chiaro che questo aumento dei prezzi è giustificato da questi aspetti qui, non è un aspetto speculativo. Grazie, grazie Presidente Mercuri per essere stato con noi, buona Epifania, buon anno naturalmente. Ci risentiamo grazie presto. Grazie a voi e buona giornata. Noi intanto ci fermiamo, abbiamo il traffico e poi abbiamo una bella sorpresa, perché fra un po' sentiremo anche che cosa ci racconta una piccola Emma dalla Spezia, che ha ricevuto stanotte la visita della Befana e ci racconterà che cosa le ha portato tra poco. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, Emma, la piccola Emma dalla Spezia. Emma, buongiorno, quanti anni hai? 9. Buongiorno intanto. La Befana è passata stanotte da te? Sì, sì. Ha portato dolci o qualcos'altro? Ha portato anche il carbone. Ah, perché hai combinato qualche marachella quest'anno? Non ti meritavi troppe prelibatezze? Sì. Senti, ma so che c'era dell'altro anche nella tua calza, c'era qualcosa di molto utile. Sì, c'era qualcosa di utile. Per esempio? Una calcolatrice, penne per andare a scuola, i quaderni per la scuola. Ma che brava, guarda, hai visto che Befana previdente, brava. Sei brava a scuola? Sì, sì. Bene, quindi lei ha ben pensato di regalarti anche qualcosa di utile, oltre che qualcosa anche di gustoso. Emma, grazie per essere stata con noi. Grazie, a prego. Presto, salutaci tanto anche i tuoi genitori che ti hanno consentito questa telefonata questa mattina. Noi adesso dedicheremo il nostro prossimo spazio ai bambini, perché intanto saluto e ringrazio per essere con noi il dottor Antonino Reale, responsabile della pediatria di emergenza Il Bambino Gesù di Roma. Dottore, buongiorno, buona Epifania. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. La Befana è passata a trovarla? Certamente, solo carbone però. Come mai? Non è stato buono no, quest'anno? Mia moglie dice che non sono stato buono. Allora niente, faccio un po' un esame di coscienza. Adesso vediamo di recuperare questa mattina con delle buone indicazioni per i nostri ascoltatori. Salve. Allora, l'abbiamo interpellata perché chiaramente, tra l'altro, qualcuno ha approfittato solo del ponte di questi giorni, perché questa Epifania appunto cade di venerdì, cioè in realtà chi è in viaggio da un bel po' più di tempo, per fortuna. Noi siamo inchiodati qua dentro in radio, non ci siamo potuti spostare se non appunto facendo solo il tragitto da qui a casa, però il tema è proprio il trasporto dei bambini in questo periodo, come in tutti i periodi naturalmente dell'anno. La scelta, parleremo adesso della scelta del sistema di ritenuta per l'auto, appunto, che non deve essere presa alla leggera, perché è uno degli acquisti più importanti per la sicurezza dei nostri bambini. E quindi quando parliamo di sistema di ritenuta per l'auto parliamo del seggiolino, dell'ovetto, dell'adattatore in base al peso e all'età del bimbo, della navicella, si può chiamare in ogni modo. Allora, dottor Reale, intanto primo consiglio generico per tutti: per chi per esempio si sposta e sta andando o sta tornando dalla montagna, ci sono, come dire, dispositivi specifici se si percorrono determinati tipi di strade, oppure, come dire, ognuno vale l'altro? No, naturalmente lei ha detto una cosa sacrosanta, i bambini ma anche gli adulti devono assolutamente sempre essere bloccati, ma non solo per l'Epifania, ma 365 giorni l'anno. Ancora ieri vedevo due bambini con il naso attaccato al finestrino posteriore, che facevano ciao con la manina, e basta che papà faccia una frenata e questi bambini vanno incontro a un trauma cranico. Quindi ricordiamoci che i bambini vanno sempre ritenuti, preferibilmente nei posti posteriori, e naturalmente i sistemi di tensione dipendono, come ha detto lei, dall'età. Ricordiamoci anche gli adulti, perché sono obbligatorie anche le cinture di sicurezza nei posti posteriori. Chi le mette di noi alzi la mano, credo molto pochi. Purtroppo ancora paghiamo un prezzo elevatissimo, e vi do anche questa brutta notizia, che parlavo con gli esperti dell'Istituto di Sanità, mi hanno detto che c'è stato da un anno o due un incremento di nuovo di morbidità e mortalità di incidenti stradali. Quindi dopo che c'è stato un crollo di circa, siamo passati a 7.000, 3.000 decessi, per parliamo di adulti naturalmente e bambini tutti, in 10 anni, adesso c'è un riaumento, vuol dire che malgrado airbag, cioè sistemi di ritenzione, è calata la tensione. Quindi mi raccomando, la cosa più importante è bloccare i bambini. Esatto, e soprattutto evitare, lo dico in termini generali, se si hanno dei bambini a bordo ancora di più, spegnete questo benedetto telefono, non controllate i messaggi in arrivo, e lo dico anche per me, che naturalmente ho spesso la tentazione di farlo. Devo dire che sto provando a togliermi assolutamente questo vizio anche di andare a fare il controllo, anche se sono ferma al semaforo e dico sì, adesso posso farlo. Dottore Ale. Arrivare a carbone anche a lei se continua a usare le stesse. Esatto, no, ma guardi, lo dico, lo come dire, confesso candidamente. Per fortuna, quando ho i miei nipoti, in assoluto non lo guardo neanche chiuso in borsa. Quando ho i bambini in montagna, a maggior ragione, dove considerazione anche delle curve, delle frenate che ci possono essere, la possibilità di ghiaccio questi giorni darà alcuni gradi sotto zero in molte parti d'Italia, la prudenza non è mai troppa, quindi mi raccomando, cerchiamo di prevenire, perché purtroppo una volta che l'incidente c'è stato, sì, per quanto possa fare la medicina, ma la prevenzione rimane il punto fondamentale. E infatti poi possono sempre sembrare indicazioni veramente banali, scontate, di buon senso, e invece a quanto pare c'è continuamente il bisogno di rinforzare questi messaggi. Abito a Roma, le posso garantire che credo intorno all'80-90%, io faccio il lungo tempo ogni giorno, l'80-90% di bambini non sono trattenuti. Quindi sono dietro, liberi, pensando che stando nei posti posteriori è più morbido, perché c'è il divano e non c'è il cruscotto, il vetro. Non è assolutamente così. No, non è assolutamente. Qui una macchina a 40-50 km all'ora che ha un impatto è più che sufficiente per avere danni permanenti. Allora, quindi andiamo a qualche suggerimento per chi ha il bambino in arrivo. Ecco, ammettendo appunto che chi ha già i bambini sappia tutto, ma non lo fa solamente per leggerezza, chi sta appunto avendo un bambino deve attrezzare la macchina prossimamente. Allora, da 0 anni a 1 anno, dottor Reale, che tipo di dispositivo si deve mettere in auto? Allora, i primi 2 mesi si può anche utilizzare bloccandolo la parte della carrozzina che si sgancia esattamente con le cinture posteriori. Poi si possono usare questi ovetti dai 2 mesi, sostanzialmente ricordatevi che il bambino, a differenza dell'adulto, non ha un tono muscolare molto elevato, quindi il problema dei piccolini è la mancanza di tono muscolare e di controllo del corpo, ovvio, certo. Del collo soprattutto, il bambino piccolo, come tutti l'abbiamo visto, come fatto, un testone molto grande e il resto del corpo più piccolino, sono fatti così, quindi questo capo grande senza controllo del collo, qualsiasi frenata viene sobbalzato avanti per la frenata, si possono avere lesioni anche a livello midollare, per cui sempre rivolto posteriormente quando sono piccolini l'ovetto, che si può usare dai 2 mesi, in maniera che rimanga bloccato in caso di frenata. Poi dai 7-8 mesi in più si possono incominciare a utilizzare i seggiolini che hanno dei sistemi di contenimento quando sono piccolini, i bambini se no non sballottano dentro, dei sistemi per bloccare il capo. E poi naturalmente per chilo, perché adesso non sono più per età ma per chilo, ci sono vari sistemi di contenimento fino agli adolescenti. Certo. Senta, per chi mette l'ovetto nel sedile del passeggero al contrario? È una buona soluzione? Secondo lei comunque va sempre messi dietro i bambini? Sempre dietro, messo nei più grandi anche davanti, ma preferibilmente sempre dietro, e sempre almeno nel primo anno rivolto posteriormente al bambino. Dopo naturalmente non ci vuole più stare, dopo piange, e allora si possono mettere guardando davanti, anche per interessarli, che chiaro, un bambino preferirebbe essere libero. Allora guardare avanti, fare vedere le macchine, fare vedere la strada, spiegare i colori, fare cose del genere, può aiutare anche a fare un viaggio sereno di vacanze senza che il bambino frigni. Non bisogna farci assolutamente commuovere dal bambino che dice non ci vuole stare, il bambino piange, il bambino rifiuta. Prima di tutto la sicurezza, prima ancora il vero amore è dato dalla sicurezza e non dall'accontentare il bambino, mi raccomando. Andiamo ai supporti per i bambini un po' più grandicelli. Intanto, secondo lei, lei chiaramente abbiamo detto bisogna considerare peso ed età, ma fino a che età bisognerebbe appunto condizionarli con il seggiolino? I sistemi di ritenzione, dicevo, dipendono dall'anno per chi in realtà. E comunque fino ai 12 anni ci possono, esattamente. Poi si possono, perché tenga presente che la cintura che ci trattiene il torace in un bambino che non è troppo alto va a impattare sul collo, quindi non si riferiscono all'altezza e quindi un peso anche adeguato. La cintura alta, non quella che sta sull'addome, potrebbe dare lesione al collo. Quindi fino a quell'età lì hanno dei sistemi di alzata sotto il sedere, diciamo, in maniera che la cintura non vada a impattare sul collo, e dopo possono usare quella per adulti. Quindi è sufficiente praticamente la seggiolina, l'aggiunta sì, sotto. Sono rialzate, diciamo, dei esatto, rialzi esatto. Farlo. E va benissimo anche la cintura che è praticamente nel sedile posteriore dell'auto. Per quel motivo che le dicevo. Allora, come diceva lei, posti anteriori preferibilmente no, sempre con la disattivazione dell'airbag, che noi abbiamo visto diverse lesioni di airbag, non sono piacevoli. Quindi l'airbag scoppia in faccia se il bambino conviene sempre metterli posteriormente e girati posteriormente, oppure si disattiva l'airbag quando stanno davanti. Dottor Reale, ci mancano 40 secondi di tempo, l'ultima raccomandazione da dare alle famiglie in viaggio in questo momento che ci siamo dimenticati fino ad ora? L'ultima raccomandazione, sono raccomandazioni come dice lei banali, ma sono importanti. Amiamo i nostri figli, guidiamo con sicurezza, non facciamo brusche accelerazioni, frenate che comunque danno fastidio al bambino, soprattutto ai piccoli che soffrono di cinetosi, di mal d'auto. Fate delle vacanze serene. Io ho un bambino che dorme sempre in auto, ma ha superato il seggiolino per il peso. C'è qualche soluzione per la testa che penzola? 10 secondi, dottor Reale. Non possiamo svegliarlo ogni 2 minuti, piccino. Non possiamo svegliarlo, no, si può bloccare con dei cuscinetti, ecco, per cercare di tenerlo. Amore, lasciamolo dormire, guarda, che almeno non fai capricci. Grazie, dottor Reale. Buon anno. A presto. C'è il giornale radio, noi torniamo tra poco. Cuore e denari. Volare, oh, oh, oh, oh, cantare, oh, oh, oh, oh. Non vola solamente la Befana sulla sua scopa in queste ore, magari così un po' per portare gli ultimi regali ai bambini. Naturalmente sono tanti quelli da servire, per cui magari qualche ritardo potrebbe essere anche possibile. Chissà, per il ritardo di una consegna di una calza ricca di dolci, se possiamo in qualche maniera lamentarci con qualcuno, chiedere un indennizzo per il mancato arrivo della calza. Ma adesso, insomma, tutto questo preambolo un po' folcloristico e divertente per introdurre il tema di cui parliamo in questa parte di Cuore e Denari. Allora, c'è un'indagine che è stata diffusa proprio un paio di giorni fa, condotta da OAG, è una società di analisi che è in possesso del più vasto database in fatto di trasporto aereo, e questa analisi che viene diffusa periodicamente si chiama OAG's Punctuality League. È un verdetto molto atteso, diceva il Sole 24 Ore negli ultimi giorni, e praticamente incrocia questa indagine i dati di 54 milioni di voli e ne tira fuori una classifica che dice con precisione decimale quali sono le compagnie aeree più puntuali e in quali aeroporti la puntualità non è un dettaglio. Allora, qual è la notizia che abbiamo trovato interessante per noi all'interno di questa indagine? Che Orio al Serio, l'aeroporto di Bergamo, sarebbe uno tra i più puntuali al mondo. Risulterebbe in questa classifica all'undicesimo posto, all'undicesimo posto c'è Linate, al settimo posto nella classifica degli aeroporti più puntuali al mondo. Per cui, insomma, questa ci sembrava anche una notizia da segnalare soprattutto in un periodo come questo in cui molti di voi o sono andati in vacanza, sono tornati da poco, magari sono ancora in giro e prenderanno il prossimo volo tra domani e domenica per ritornare regolarmente al lavoro lunedì. Naturalmente cogliamo l'occasione anche per chiedervi, adesso vi darò anche la classifica degli altri aeroporti per raccontarvi magari qual è in assoluto il migliore al mondo, ma chiedo anche a voi all'800 24 0024 l'ultima disavventura aerea che vi è capitata. Avete perso una coincidenza per colpa magari del ritardo del volo precedente, la compagnia non vi ha supportato, assistito, riprotetto come si dice in gergo in questi casi, la valigia dispersa chissà dove è ritrovata, vacanza conclusa, insomma la casistica è molto ampia ed è la casistica che analizza molto attentamente una società che di lavoro che cosa fa, proprio chiede gli indennizzi per i malcapitati viaggiatori. Allora ringrazio e saluto per essere con noi in questa giornata dell'Epifania Danilo Campisi, Head of Online Marketing di AirHelp. Campisi, buongiorno. Ho detto buongiorno, tutto correttamente, Deborah. Buongiorno e buon anno naturalmente, grazie. Buon anno. Allora, abbiamo raccontato di questa classifica. Vi colpisce il fatto che l'aeroporto di Orio al Serio sia fra i più puntuali al mondo? Settimo posto, non è male, che ne dice? Ma assolutamente sì, tra l'altro Orio al Serio in altre classifiche, ad esempio quella di Skytrax. Skytrax è una società che si basa in Inghilterra e appunto fa anche classifiche delle compagnie aeree e degli aeroporti. L'anno scorso appunto l'aeroporto di Orio al Serio era tra gli ultimi, se non sbaglio addirittura era proprio l'ultimo in classifica. Ah. Quindi il fatto che adesso abbia guadagnato quantomeno da puntualità di certo gli fa merito. No, tra l'altro ecco, per quegli ascoltatori curiosi di come fosse stata stilata questa classifica, vengono proprio presi in considerazione gli orari di arrivo e di partenza dei voli, quindi la puntualità e basta, no? Mi sembra, Campisi. Sì, assolutamente, e noi facciamo anche una classifica simile che però è molto più incentrata proprio sulla puntualità dei voli, perché giustamente le classifiche di ONG o Skytrax tengono in considerazione anche altri criteri che sono ad esempio molto più incentrata sulla qualità e il servizio offerto, mentre noi, essendo una compagnia che si occupa principalmente di ritardi dei voli, disagi subiti, quello su cui ci focalizziamo maggiormente è la puntualità. E infatti nei nostri database controlliamo ogni 3 mesi tutte le partenze e arrivi delle compagnie aeree, e appunto ogni 3 mesi usciamo con questa classifica chiamata AirHelp Score, che appunto mette in relazione quali sono le migliori e le peggiori compagnie aeree. In questo caso noi non facciamo però aeroporti, e quindi anche è un'informazione in più per il passeggero quando esatto. Si deve volare oltre al prezzo. Esatto, ma secondo lei appunto i viaggiatori, almeno quelli assidui, oggi scelgono in base anche a questi criteri oppure fanno solo ed esclusivamente delle valutazioni in base al prezzo del volo che trovano, Campisi? Perché in realtà con tutte le super offerte che troviamo, soprattutto se si prenota con largo anticipo, qualche volta devo dire, io per un viaggio dell'anno scorso per esempio negli Stati Uniti, in cui avevo un paio di scali, oggettivamente ricordandomi anche di disavventure passate, ho fatto caso anche all'aeroporto appunto in cui lo scalo doveva essere fatto, scegliendo di conseguenza, però non so se poi è un atteggiamento diffuso. Beh, diciamo che il prezzo è ancora il fattore più sensibile, tra l'altro questo dimostra come mai anche sono sviluppati anche in Italia molti meta search che erano già molto famosi in altri paesi come Inghilterra, Danimarca, come ad esempio Momondo, Skyscanner eccetera. Ovviamente questi meta search non danno altre informazioni molto importanti, quali sono ad esempio il servizio ricevuto, la puntualità. Quello che noi riusciamo a vedere dalle nostre statistiche è che c'è il trend è crescente sull'attenzione che viene dato non solo al prezzo, che comunque rimane sempre il fattore più sensibile, almeno per una fascia specifica di clienti, che è poi quella fascia più grande. Esatto. Per i più grandi, dice, no, io pensavo che più giovani scegliessero. Intendevo la fascia più ampia, non grande di età. Però appunto c'è anche questa crescente sensibilità per la qualità del servizio offerto, puntualità, e spesso anche come viene l'assistenza che viene ricevuta dopo che si è preso il volo. Quindi ad esempio se si sono avuti dei problemi, come è stato il processo di reclamo, di rimborso, eccetera, eccetera. Certo. Allora, intanto volevo fare una cosa, invece di dirlo io qual è il migliore aeroporto in assoluto in termini di puntualità, lo chiedo agli ascoltatori. Andate a caccia di questa indagine, vediamo se mi rispondete all'800 24 0024, e così anche oggi troviamo l'occasione di mandarvi a appunto la nostra Befana con una calza, con un libro di cuore e denari. Peraltro non abbiamo detto una cosa di Orio al Serio, che lo scorso anno ha festeggiato anche gli 11 milioni di passeggeri in transito, ed è, come sappiamo bene, anche lo scalo reso famoso appunto per i voli di Ryanair. Allora, intanto ci sono già anche degli ascoltatori pronti ad intervenire in diretta al nostro numero verde, perché li ho convocati appunto Campisi, come ha sentito prima, per raccontarci l'ultima disavventura aerea che è capitata. Io gliela faccio raccontare e poi cerchiamo di capire anche se sono situazioni tipiche gestite da Air Help e come istruite le vostre pratiche per chiedere poi appunto l'indennizzo alle compagnie aeree, se naturalmente ci sono i presupposti, perché non è che ci dobbiamo sempre andare a lamentare di tutto. In quali casi appunto voi seguite evidentemente appunto viaggiatori e passeggeri appunto di voli al fine di ottenere un indennizzo ed un risarcimento per un viaggio andato male per colpa della compagnia. Allora, Walter dalla provincia di Pesaro Urbino, buongiorno. Intanto nevica, Walter, com'è buongiorno. Lì la situazione? No, qui adesso c'è il sole. Ah, ecco, perché lì a Senigallia ha sentito tutta bloccata persino la linea ferroviaria, per cui poco sotto da voi. Ecco. Sì, ci dica, allora. Ma niente, guarda, volevo solo raccontare la mia disavventura. E ho fatto con la famiglia un bel viaggio a New York, e sia all'andata che al ritorno ho utilizzato Air Berlin, e sia all'andata che al ritorno ho avuto un'ora di ritardo, un'ora e venti al ritorno, un'ora e trenta al ritorno addirittura. Forse sono stato sempre fortunato e mi sembra una cosa anomala. Poi ho detto prendo Air Berlin, questi tedeschi, dice lei, certo, no? Non è stato così. In più al ritorno, visto che ho preso anche una coincidenza molto velocemente, le valigie logicamente certo. Il tema è proprio questo, che noi ormai diciamo logicamente le abbiamo perse. Quando abbiamo i tempi molto stretti appunto per una coincidenza, diamo quasi per scontato che le valigie finiscano chissà dove, e invece Campisi non deve proprio essere così. Che dice? No, assolutamente. Tra l'altro volevo dire che per quanto riguarda il ritardo di un'ora e passa, in quel caso bisogna avere un'assistenza diretta da parte della compagnia aerea. Nel caso in cui si hanno rimborsi fissati dalla regolamentazione europea, quello è quando vengono superate le 3 ore di ritardo, però comunque già dopo un'ora bisogna avere dell'assistenza speciale della compagnia aerea, e dopo le 2 ore si può già ottenere un rimborso dalla compagnia aerea che non è quello però previsto dalla regolamentazione europea. Senta, cosa intenda per assistenza speciale della compagnia aerea nel caso di un'ora di ritardo? Ad esempio si possono avere dei voucher che danno un piccolo rimborso per il volo successivo, nel caso in cui l'orario di il ritardo corrispondeva a un orario ad esempio del pranzo, si può avere un voucher per dei buoni pasto, eccetera. Questi sono dei diritti che vengono estesi spesso dalla compagnia aerea anche quando si ha un ritardo superiore alle 3 ore. Infatti la maggior parte dei nostri clienti ci vengono sempre a dire: ma a noi è stato offerto un voucher, io l'ho accettato, adesso non so se posso avere il rimborso. Assolutamente sì, perché se il ritardo è superiore alle 3 ore, certo, magari ti ha causato danni di altro tipo e il volo, se te lo vogliono rimborsare, è un problema loro, ma il tema è che se sei stato danneggiato magari arrivando in ritardo ad un appuntamento, ritardando di un giorno il ritorno al lavoro, no? Esatto, in quel caso addirittura il rimborso è fissato dalle leggi europee, va da 250 a 600 euro, quindi qualsiasi voucher non annulla il diritto a questo rimborso. Certo. In quali casi intervenite allora voi, Campisi? Insomma, in quali situazioni, così tanto per suggerirlo anche ai nostri ascoltatori, li potete proprio aiutare ad ottenere questo indennizzo? Fino a quanto si può chiedere, anche perché chiaramente anche qui ci sono dei limiti, non è che dobbiamo esagerare, perché poi nel caso magari di danni particolarmente significativi è chiaro che qua ci va di mezzo magari un legale o non so. Ecco, fino a che punto si spinge la vostra assistenza? Allora, innanzitutto il rimborso non è legato al prezzo del biglietto, quindi indipendentemente da quanto qualcuno ha pagato si può avere un rimborso che va da 250 a 600 euro. I rimborsi sono fissati dall'Unione Europea e sono 250 per una tratta nazionale, quindi se qualcuno ha fatto, Roma-Milano ad esempio, 400 euro per una tratta di media lunghezza che potrebbe essere considerata per esempio Roma-Inghilterra, Londra ad esempio, mentre una, per una tratta lunga, ad esempio da Roma a Istanbul, in quel caso si ha diritto Roma-Stati Uniti, o nel caso di Berlino-Stati Uniti, come diceva il nostro ascoltatore, in quel caso si ha diritto fino a 600 euro di rimborso. Quando si può ottenere il rimborso? Diciamo sono casi ben specifici, ma si possono riassumere in tutti quei casi in cui la compagnia aerea non era responsabile, quindi avrebbe potuto evitare, ma non l'ha evitato, mentre in quei casi in cui non è assolutamente responsabile, faccio un esempio, c'è un temporale o ci sono motivi seri sulla sicurezza, in quel caso non è responsabile. Però c'è da dire che spesso la compagnia aerea, diciamo la causa, la scusa più diffusa delle compagnie aeree per non pagare è c'è stato un problema tecnico. In quel caso la compagnia aerea è responsabile, perché tutti i problemi tecnici potevano essere, appunto, devono essere previsti con il normale quality check, certo, che fanno le compagnie aeree, quindi non è una scusa. Che percentuale di successo ottenete dalle vostre iniziative, Campisi? E allora, la nostra percentuale di successo è intorno al 98%, e questo perché generalmente tutte le cause che non hanno riscontro dalla compagnia aerea vengono portate poi in tribunale, e generalmente in tribunale noi già sappiamo, diciamo, sappiamo già che come la legge, quindi generalmente il giudice ci dà una, diciamo, il reclamo è sempre a nostro favore, perché, certo, appunto diciamo, la legge è quella e non c'è molti modi per sviarla. Allora, intanto le segnalo che c'è un ascoltatore, così almeno, visto che ovviamente lavoriamo sempre all'insegna della massima trasparenza, leggo tutto. Massimo su WhatsApp ci scrive: a giugno con la famiglia volo Siviglia-Barcellona, cancellato senza preavviso. Ho inoltrato tutta la documentazione ad AirHelp, dopo 3 mesi rimborsati 250 euro per 3, con la percentuale anche di commissioni, ci indica. Posso dirla, Campisi? Assolutamente. 25%. Che dire, bravi, la provvigione mi sembra un po' alta, ma il servizio è stato ottimo perché io non ho perso tempo, e siccome il tempo è denaro, Campisi, ecco, quindi insomma, anche per dire che chiaramente voi siete, come dire, dal punto di vista economico remunerati, quindi attraverso una scalate praticamente dal rimborso che riesce ad ottenere il viaggiatore? Esatto, in realtà c'è da dire che non è che noi scaliamo solamente in caso di vincita dal rimborso del viaggiatore, altrimenti non tratteniamo nulla. Però c'è da dire che non è solo una questione di compilare, diciamo, un foglio e mandarlo alla compagnia aerea, altrimenti non avrebbe avuto mai, certo, il successo che ha oggi. In realtà noi abbiamo diversi team, abbiamo un team che si occupa appunto di spiegare tutte le carte, la burocrazia, abbiamo poi un team che contatta la compagnia aerea, negli anni abbiamo stabilito molte relazioni, alcune anche formali, con le compagnie aeree, quindi diciamo quando li chiamiamo sanno già chi siamo, e poi abbiamo anche un team legale che si occupa appunto quelle compagnie aeree non collaborative di fare prima mandare un avviso e poi eventualmente andare in tribunale. Ce n'è qualcuna particolarmente resistente? Sì, diciamo che poco fa hai citato, riguardo a Aurel Serio, hai citato Ryanair, che è una delle principali che viaggia con Aurel Serio, e devo dire purtroppo Ryanair è ancora una di quelle che risponde meno, e tra l'altro in questo caso il problema è che loro non vogliono sentire scuse con questi prezzi che vi offriamo, ma vi lamentate pure, dicono, però vabbè, che c'entra, però sulla puntualità il problema è che il disagio è sulla persona, non sul quindi in quel caso purtroppo bisognerebbe comunque, il disagio è molto più ampio del prezzo pagato, però diciamo tra il problema quando Ryanair non ci risponde, poi bisogna andare in tribunale, lì si va fino a 2 anni, e purtroppo quello che si lamenta di più è il cliente, perché dice: cavolo, sto ancora aspettando 2 anni, ma sono purtroppo i tempi, certo, della legge italiana. Non possiamo velocizzare in quel caso, lì dipende dal tribunale. Allora, 3 settimane fa, aeroporto London Gatwick, volo per Linate, ritardo di 3 ore a tarda sera. Il voucher per la cena offerto è stato di £3, inutile dire che all'aeroporto bastavano a malapena per un caffè. Qua potreste intervenire? Quanto è stato il ritardo? Mi scuso, tre ore. Sì, assolutamente. Lì pure di notte, quindi danni doppi, direi, perdita di sonno. Ci sarebbero 250 euro di rimborso, ecco, per passeggero, e tra l'altro qual era la compagnia aerea? Scusami, non la scrive l'ascoltatore, tra l'altro è una di quelle compagnie aeree, diciamo, che noi definiamo collaborative, in quel caso anche in 2 settimane potremmo ottenere il rimborso. Senti Danilo, adesso ci diamo del tu perché ormai ci conosciamo da un bel po' di tempo, poi Danilo è molto giovane, oltre che molto competente. Le notizie sul terrorismo di questi giorni stanno influendo sul settore del trasporto aereo, sulla percezione del viaggiatore? Monitorate anche questi aspetti voi con la vostra attività? Sì, noi tra l'altro di recente, un paio di mesi fa, abbiamo lasciato un'intervista alla Gabbia sulla 7, dove appunto si parlava proprio di questo. E come appunto ho detto lì, allora c'è una ovviamente c'è un impatto sulle mete più, diciamo, calde. Vediamo una diminuzione dei voli in arrivo, in partenza. L'unica cosa è che questo qui influenza anche a livello legale, c'è un'influenza anche a livello legale, perché come è stata fatta una sentenza di recente dal giudice di Torino, questa è proprio una novità assoluta, infatti siamo anche usciti con vari articoli su questo, appunto un giudice di Torino ha stabilito, e questa è una sentenza storica, che nel 505/2016, che appunto nel caso in cui una persona prenoti un viaggio in una destinazione che potrebbe essere a rischio terrorismo, anche se diciamo non è successo nulla, e poi se ne pente, può rifiutarsi di viaggiare, se poi magari ha paura di farlo in un secondo momento, e la compagnia aerea deve risarcire appunto il biglietto aereo. Questa è appunto una novità assoluta che non era mai successa prima, certo. Infatti farà anche giurisprudenza. Allora, a proposito invece di rinunciare a qualche viaggio per cause non dipendenti dalla nostra volontà, può anche capitare che una compagnia aerea scioperi improvvisamente. In realtà qua ne abbiamo già uno bello annunciato, venerdì 20 gennaio, quindi lo diciamo con un bel po' di giorni di anticipo, tocca appunto questa nuova agitazione del settore aereo, per l'intera giornata rimane a terra il personale del gruppo Alitalia, e quindi molti di servizi saranno presumibilmente registrati presso gli scali di Milano, Linate e Malpensa, proprio a causa anche della protesta dei dipendenti SEA. Per Alitalia peraltro andiamo incontro ad un altro periodo molto difficile, l'ennesima crisi per la compagnia ex di bandiera, ormai non possiamo più chiamarla così, perché insomma si parla di altri 4.000 esuberi su 11.000 dipendenti. Lunedì l'azienda incontra il governo e poi ci sarà un nuovo incontro con le organizzazioni dei lavoratori, e andiamo incontro ad un altro momento molto difficile per questa azienda. Se c'è uno sciopero improvviso, non sono situazioni molto ricorrenti, mi pare, Campisi, ma effettivamente, insomma, soprattutto in Italia, insomma, siamo in procinto di partire e la compagnia invece non ci garantisce il volo proprio perché c'è un'improvvisa agitazione sindacale del personale. In questo caso voi potete intervenire? In questo caso purtroppo no, perché non è stata dalla giurisprudenza, abbiamo visto altri casi in cui non è mai stata data la colpa alla compagniera, diciamo la compagniera non poteva prevederlo e non era responsabile pertanto per il mancato disagio subito, diciamo. Pier Giorgio da Brescia, lei che cosa è successo? Buongiorno. Buongiorno, io volevo solo raccontare una vicenda andata a conclusosi felicemente nel mese di novembre. Sono partito per un viaggio per Miami con British da Milano. Mm-hmm. Il viaggio era in ritardo, il volo era in ritardo in partenza già di un'ora, da un'ora. Ma io non lo so, perché l'equipaggio non aveva riposato a sufficienza, quindi già questa era una disorganizzazione. Dopodiché sono arrivato a Londra con un'ora di ritardo, perdendo la coincidenza per Miami. Mi hanno riprotetto su un altro volo, ma anche quello è partito con un'ora e mezzo di ritardo. Sicché sono arrivato a destinazione con esattamente 5 ore di ritardo, certo. Conoscendo poi i miei diritti, ho fatto valere questa situazione e devo dire che British, con direi con tempestività, mi ha rimborsato e mi ha dato un risarcimento, certo, di 600 euro per persona. Infatti proprio il top, il tetto massimo che ci indicava, esatto, prima Campisi. Esatto, no, peraltro stavo pensando, il personale non ha riposato a sufficienza, evidentemente era già reduce da viaggi che avevano ulteriore ritardo, perché se poi a cascata appunto il numero di ore di riposo, che immagino sia stabilito anche per legge, non era stato sufficiente, evidentemente c'era stato un domino di ritardi per questo gruppo appunto di personale che arrivava da Londra. Vabbè, detto questo, Campisi, tutto è bene quel che finisce bene, nel caso appunto del nostro ascoltatore ha fatto valere correttamente i suoi diritti. Sì, qua mi viene in mente una cosa da dire, che questa legge appunto non si applica a qualsiasi volo al mondo, ma essendo una legge europea si applica a qualsiasi volo che parte dall'Unione Europea, però nel caso si tratti di volo internazionale, ad esempio Stati Uniti o Asia eccetera, che arriva in Europa, in questo caso deve essere una compagnia europea per valere la legge. Mm. E quanto tempo abbiamo per chiedere il rimborso, chiede Fabio? Abbiamo 3 anni di tempo in Italia. Addirittura, quindi lui addirittura chiedeva quanti mesi ho di tempo per chiedere il rimborso, quindi 3 anni per rivolgerci. Sì, diciamo, su internet ho letto varie storie, ad esempio devi richiederlo entro una settimana o 2 settimane, in realtà sono ben 3 anni, quindi anche se avete voli passati, volete controllare la vostra casella email, magari vi trovate biglietti di 2-3 anni fa che sono eleggibili, assolutamente ancora possono essere monetizzati. Certamente. Allora, Francesco dalla provincia di Milano all'800 24 00 24, ovviamente lui oggi non festeggia la Befana ma sente cuore e denari, quindi un'ottima scelta, si candida a rispondere al nostro quizzettone di oggi. Abbiamo chiesto, in base alla classifica di cui abbiamo raccontato poco fa, in cui Orio al Serio risulta al 7° posto a livello mondiale tra gli aeroporti più puntuali al mondo, qual è in assoluto lo scalo perfetto, Francesco? Sì, è Birmingham. Eccoci qua. Libro di cuore o di denari, Francesco? Di cuore lo vuole. Allora adesso deve aspettare che ritorni lunedì la nostra Nicoletta. Grazie molto e buon anno, Francesco, per essere stato con noi. Auguri anche a lei. Allora, intanto noi abbiamo terminato questa parte di cuore e denari. Vedo che nel frattempo gli ascoltatori si sono proprio scatenati nell'ultima parte della trasmissione. Allora, per chi sta partendo, magari proprio si così regala un viaggio in questa ultimissima parte delle vacanze, magari prova naturalmente a fare un viaggio Campisi non con i prezzi dell'alta stagione, ma prova a risparmiare, quindi magari c'è gente che a Natale ha lavorato per farsi un po' di vacanza dopo. Qualche raccomandazione da dare da parte vostra per partire tranquilli e quindi anche ben muniti in termini emotivi qualora si verificasse qualche disagio in volo o anche in aeroporto? Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto direi sempre di controllare, noi abbiamo sul nostro sito una classifica di tutte le compagnie aeree, quindi quando prenotate date anche un occhio alla compagnia aerea con cui state prenotando per evitare brutte sorprese. Un altro consiglio, ovviamente noi nel nostro blog diamo un sacco di consigli su come diciamo prenotare un volo alla miglior tariffa o cose del genere. Abbiamo anche scritto un libro che si chiama Travel Like a Pro, purtroppo per adesso sarà in inglese ma verrà tradotto in italiano, che dà molti consigli sui viaggi. E nel caso in cui purtroppo il disagio comunque avviene, noi abbiamo comunque un servizio di assistenza gratuita in italiano che potete comunque chiamare 24 ore su 24 e che vi assisterà immediatamente. E poi nel caso in cui volete fare un reclamo, io suggerisco sempre, potete farlo se avete tempo voi stessi contro la compagnia aerea, oppure se volete usare AirHelp, diciamo, noi abbiamo molto staff dedicato proprio a questo e probabilmente sarà in grado di aiutare. Grazie a Danilo Campisi, la società si chiama Air Help e quindi per gli ascoltatori che devono prendere carta e penna e segnarlo, Campisi, grazie per essere stato con noi. Danilo, grazie, buon anno, a presto. Buon anno, grazie. Rapidamente mille. La borsa e poi torniamo con i nuovi approfondimenti dedicati tutti al contenuto della calza della Befana. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Cuore e denari. La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte. Allora, che abbia le scarpe rotte, poverina, noi dispiace molto, l'importante però che sia attrezzata in maniera adeguata dal punto di vista delle calze che porta a tutti i bambini. Allora, in questa seconda parte vogliamo guardare insieme cosa c'è dentro la calza della Befana. C'è di tutto, addirittura la piccola Emma che ci ha chiamato all'inizio trasmissione ci ha raccontato che oltre al carbone dolce, naturalmente, ha trovato anche tanta attrezzatura utile per andare a scuola. Non chiederemo commenti su questo, al nostro ospite di questa mattina ci dedicheremo invece a tutto ciò che è commestibile che si trova all'interno della calza. Buongiorno e grazie per essere con noi al nostro dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia, immunologia clinica a Milano. Guai a lei se mi fai gli auguri per la festa. No, infatti stavo pensando che lo so, assolutamente evitato. Avevo percepito evviva, siamo qui insieme. Con il mio radar che dico, eccolo che è pronto a farmi gli auguri per la mia festa oggi. No, tra l'altro, dottor Speciani, guardi che abbiamo parlato anche di un tema che so che le è molto caro ad inizio trasmissione. Siamo in crisi da ortaggi in queste ore perché per il maltempo abbiamo il finocchio KO e difficilmente troveremo tanta verza, tanti cavolfiori e tanto broccoli al supermercato, tanti broccoli al supermercato nelle prossime ore perché il maltempo sta piegando questo settore dell'ortofrutta e per lei è un bel problema perché so che ad inizio pasto continua a suggerire di inserire appunto qualcosa di, com'è che dice lei, fresco, crudo e colorato, vivo, crudo, vivo e colorato, crudo, vivo e colorato. Però dai, diamo uno spunto di fantasia, è vero, questo ogni stagione, ogni momento noi abbiamo più pioggia, meno pioggia, per fortuna la natura è variabile. e non abbiamo sempre delle situazioni stabili, però oggi abbiamo comunque le carote, abbiamo delle mele, abbiamo dei kiwi, cioè degli elementi che non sono meno sensibili in questa fase a questo tipo di come dire, di freddo intenso, quindi chiaro, ci dispiace per la situazione agricola, per quello che può intervenire, però siccome la salute è un bene prezioso per tutti, allora cerchiamo di compensare con quello che la natura ci offre e ci mantiene. Senta, le confesso che io ieri sera ero a cena a casa di Nicoletta e mi ha proposto ravanelli buoni. Poi devo dire, ogni tanto rimane questa indicazione, io credo che a volte anche la coltivazione in serra, se fatta in maniera adeguata, risponde molto a delle caratteristiche e di chilometro zero e di naturalità. Abbiamo la possibilità di mangiarci anche dei sani rapanelli che sappiamo che non vengono da 7.000 milioni di chilometri, ma sono presenti, sono fatti con la nostra terra, con i nostri semi nel nostro ambiente. Allora, intanto, ascoltatori, aiutatemi a interrogare il dottor Speciani se andava bene il contenuto della vostra calza della Befana, se naturalmente ha messo dentro, oltre che i doni per i vostri bambini, anche tipicamente, oltre al carbone, qualche altra cosa di commestibile, dolce o non dolce, insomma tante le cose che si possono inserire. 800 24 00 24. Allora andiamo intanto per prima cosa proprio a questo benedetto carbone che troviamo. È un prodotto appunto dolce, di che cosa è fatto? No? Carbone è veramente una cosa, ho qualche perplessità, nel senso che intanto da piccolo io non ce l'avevo, quindi questo dà un'indicazione dei miei anni purtroppo, però dall'altra parte man mano che l'ho visto comparire nelle preparazioni, davvero alla fine è un cristallo, è zucchero colorato, per cui direi uno degli elementi più critici se dobbiamo parlare dal punto di vista nutrizionale oggi, quindi è lì per bella posta, direi che l'indicazione è di usarne giusto un pezzettino per non fare dispiacere alla nonna, alla zia, alla mamma, chiunque ci abbia messo la calza, e per integrarlo con qualcosa, fine, poi lo lasciamo lì, cioè fa parte della tradizione, ne abbiamo assaggiato un pezzo. Ma infatti, e basta. Vabbè, generalmente non è che ce ne troviamo proprio 2 chili, ecco, c'è quel pezzetto che fa un po' anche folklore, però moderiamoci anche nel consumo, perché è sempre un cristallo di zucchero e poi anche colorato. Allora, la frutta secca, guai se manca. Ma assolutamente, tra l'altro prima stavo andando a ricontrollare 2 dati che mi sono venuti in mente di una delle evenienze dei dati di uno degli ultimi congressi della Federazione Europea di Nutrizione, e c'era una bellissima industria americana che stava lanciando tutta una comunicazione pubblica potentissima, ad esempio sui pistacchi. E questo la riprendiamo tra poco, perché la frutta secca, e noi l'abbiamo che nasce nella nostra terra, che nasce nelle nostre regioni, davvero ha delle componenti fantastiche. Abbiamo questo 30-35% di proteine vegetali all'interno, quindi va benissimo per tutti, per gli onnivori, per i vegani, per i vegetariani, per chiunque, una fonte di proteine fantastica e meravigliosa. Poi non a caso voi mi soprannominate il dottor Noce, perché io sui semi oleosi ho delle passioni assolute. So. Ma diciamo 2 o 3 cose che valgono anche per la giornata di oggi. Vada, credo, assolutamente. Poco, sì, ci parleremo anche del come in effetti finisce un ciclo di assunzione alimentare importante tra Natale, Capodanno, le cene pre-Natale, tutta questa serie di cose. Di fatto quando noi mangiamo della frutta secca abbiamo una modulazione dell'assorbimento poi delle calorie complessive. Questo è un dato importante perché cala lievemente l'appetito, c'è una presenza di alcuni grassi molto sani, molto buoni, che sono sicuramente indicati per bilanciare il rapporto ad esempio con gli zuccheri che possono trovarsi. Ad esempio abbiamo una quantità potente di vitamina E, che è un dato notevolissimo, quindi in questo momento in cui col freddo abbiamo bisogno di vitamine liposolubili, quindi la B, la E, la A, ecco che la frutta secca ne contiene in quantità importante, che sono quelli che noi pensiamo come gli oli, no? Gli oli che ci sono dentro. Quindi assolutamente evitato se manca. Certo. Tra l'altro so che lei lo suggerisce anche di portarne un pugnetto in tasca per tutti quei vuoti di stomaco che possano cogliere improvvisamente in questo periodo, magari non ne abbiamo perché siamo abbondantemente riforniti di cibo, però magari siamo fuori per lavoro, non abbiamo avuto il tempo di consumare un pranzo adeguato, ecco che un pugnetto di frutta secca può compensare assolutamente ogni mancanza. non solo compensa, direi facciamo proprio un esempio differente: ho in tasca un pezzettino di pane oppure un famigerato pezzettino di zucchero, allora ho fame, mangio questo, nel giro di 20 minuti credo di essere sazio, poi dopo 20 minuti mi torna una fame aggiunta. Il picco glicemico, eccolo qua, torna sempre lui. Bravissima, promossa, inizio dell'anno promossa. Dopo 4 anni di Cuore e Denari con Nicoletta, qualcosa in testa, dottore, mi sarà rimasto, oltre che in pancia, perché poi mangio anche sempre molto volentieri, come lei sa. E quindi, insomma, ecco, l'effetto qual è? L'effetto invece di un bilanciamento, perché c'è una quantità di grassi bilanciata con un po' di proteine e di carboidrati in quantità giusta, in realtà mantiene un indice glicemico molto basso, e quindi l'assunzione del pugnetto di noci che vengono utilizzate in realtà rallenta la fame successiva, non ti viene fame per un tot di tempo, per 2 ore, per 2 ore e mezza, per cui c'è questo effetto di riduzione. E devo dire, questo mi fa ridere, me la dico come nota di costume, appunto questa azienda americana che lanciava i pistacchi, invece noi ne abbiamo di buonissimi, che facciamo pronte e non solo, senza bisogno, però lanciava un concetto che è il pistachio principle, e dice: cos'è questa roba qui? È un effetto in cui dici: guarda, in realtà se devi sbucciare i pistacchi, in realtà non ne mangi a manciate, perché la fatica per sbucciarli ti obbliga ad un uso moderato. Devo dire che questa cosa mi ha fatto molto sorridere, che fosse addirittura elevato a principio dietologico nutrizionale. Era interessante, però è vero, perché se dobbiamo... ci dà anche la misura di come il dibattito ormai attorno a tutto al mondo della frutta secca forse abbia raggiunto dei livelli molto interessanti, non solo per voi nutrizionisti, dottor Speciani. No, ma infatti io credo che questo sia un tema sociologico di cui la parte Denari, di Cuore Denari, può occuparsi, perché è un tema interessante. Quindi c'è un dibattito all'intorno davvero rilevante e tocca anche altre tematiche. Allora, naturalmente arachidi, ci chiedono degli ascoltatori, sì certo, ma senza sale possibilmente, non proprio quelli degli stuzzichini, e non tostate. Sì, esatto, questo è un po' un tema importante, no? Perché noi siamo abituati all'idea dello stuzzichino, per cui si mangia una nocciolina in cui tutto il buono di quegli oli che abbiamo raccontato prima, per i pistacchi, per le nocciole, per le mandorle, in realtà va un po' a farsi benedire, nel senso che essendo cotto ad alta temperatura perde le sue caratteristiche di salutarità, di salubrità, certo, che porta con sé. Quindi delle arachidi da sbucciare, proprio da mangiare tranquillamente, che è bello, poi dopo c'è tutto questo polverino davanti al piatto. Infatti. Senta, dottor Speciani, che grado di digeribilità ha la frutta secca? Qualcuno lamenta il fatto che risulta un po' pesante consumare alcuni di questi tipi, appunto, di frutta secca per la digestione, quindi anche in questo caso consumare con moderazione, o c'è proprio magari per qualcuno un problema di digestione legato al consumo di noci, arachidi, mandorle, nocciole e tutto quello che possiamo mettere in questo dunque punto? Noi abbiamo, come sapete, intanto ci siamo sentiti anche da Londra direttamente, sì, pure lavoro, su c'è un elemento potente: nascono bambini rachitici senza vitamina D, perché le persone tendono spesso, per notazioni varie, uno deve abbassare il colesterolo, deve fare delle cose, fare diete dimagranti, ipocaloriche, eccetera, si tendono ad eliminare i grassi dall'alimentazione, che sono stati rivalutati in modo pieno, però c'è moltissima gente che tende o ha teso a ridurre completamente i grassi, e con questo però perdendo un apporto positivo che viene appunto la frutta secca piena di grassi, giusti, sani, buoni, e questa cosa rende un pochettino più difficoltosa la digestione. Il mio suggerimento è, di fronte a questo tipo di situazione, iniziare con piccole quantità, masticandole bene, mischiandole al pasto, cioè, come dire, reinsegnando un po' all'organismo a utilizzare dei grassi sani che spesso la nostra dieta ha tolto di turno, limitandoci invece a dei grassi cotti, trasformati, eccetera, addirittura alla loro eliminazione. Non le dico che foto meravigliosa ci ha mandato l'amico Carlo da Latina, uno scorcio di mare, un cielo azzurro in maniera incredibile, però segnala Carlo: vento freddo freddo e sole ingannatore, cosa faccio una volta a casa? Noci, noci e noci. Insomma, qua abbiamo anche un effetto consolatorio e gratificante della frutta secca, dottor Speciani, anche questi aspetti lei li studia? Perché a me gratificano molto, e devo dire che io faccio fatica a tenerne in casa perché ne consumo un po' troppa. Quindi anche un occhietto alle calorie, però bisogna darlo. Ma devo dire che quell'idea del principio del pistacchio, no? un po' rompersi da soli, in effetti porta bene e aiuta. Devo dire tra l'altro una cosa: proprio recentemente su Rosalus ho scritto un articolo sul ritorno dei geloni, che è un elemento frequente e che purtroppo corrisponde ad una mancanza di alcune, una sorta di malnutrizione, l'espressione di una malnutrizione. situazione. Ah. E mi piace questa immagine del freddo e di chi torna a casa e mangia noci, perché una delle terapie nutrizionali che si danno sono proprio vitamina A, vitamina E, vitamina D, quindi in parte diciamo che almeno al 90% noci, nocciole e mandorle arrivano a compensare questo bisogno e rendono quindi sicuramente un'azione di prevenzione anche rispetto a questa, perché una volta pensavamo che i geloni fossero una roba da piccola fiammiferaia, no? Sì. E in realtà oggi stanno diventando decisamente più frequenti proprio perché ci sono delle carenze nutrizionali importanti, la gente non mangia frutta, verdura e grassi sani e tendiamo ad usare solamente cose cotte, cose preconfezionate e così via. Però devo dire che la nostra azione, sono contento di iniziare quest'anno fondamentalmente ancora con voi perché anche la vostra azione positiva di comunicazione sul pubblico ha creato, sta creando, e lo vedo nelle persone che incontro, una consapevolezza diversa. Abbiamo un effetto colazione noi, dottor Speciani, lo abbiamo già raccontato in un'altra puntata. Senta, però, tra l'altro, a proposito di effetto gratificazione attraverso il cibo, se proprio deve esserci un re tra gli alimenti che riesce a produrre questo effetto, quello è il cioccolato, e adesso ne parliamo subito dopo il traffico, a tra poco. Cuore e denari. L'ultima parte della nostra trasmissione, ormai quasi tutta frutta secca oriented stamattina, ma dedicheremo anche il dovuto spazio al cioccolato e dedicheremo anche il dovuto spazio a qualche buona ricetta con un grande amico di Cuore e Denari. Fra un po' torna a trovarci uno dei nostri chef preferiti, Stefano Polato. Però, dottor Attilio Speciani, allora intanto Tiziana da Modena ci dice: a me piace molto la frutta secca, ma sono proprio allergica alla maggior parte dei frutti. E poi un altro problemino ce l'ha anche Daniela dalla provincia di Milano che ci chiama. Daniela, benvenuta e buon anno intanto. Buongiorno, grazie. Buon anno Deborah e complimenti per le sue molteplici conduzioni. Come dico sempre io, Daniela, in questi giorni ho delle grandi opportunità professionali. Lei è il jolly di Radio 24. Allora, sono molto lieta di parlare anche col dottor Speciani, perché io mi curo solo con l'omeopatia, quindi sono contentissima. Però a me piace moltissimo la frutta secca, però se io mangio due giorni a fila una noce, il terzo giorno io ho come delle afte nelle gengive. Certo. Quindi non è un problema di quantità, anche pochina, no, Daniela, ma ripetuto il consumo. Ecco, vorrei sapere se c'è un antidoto. Non so cosa posso fare. Perché io mangerei tutti i giorni nocciole, noci. Non lo dica a me, Daniela, guardi, io ho dei gran barattoli e non ho neanche la scusa dell'irritazione delle gengive, stanno benissimo le mie. Quindi, dottor Speciani, allora come possiamo aiutare le nostre amici ascoltatrici? Dunque, è interessante questo dato perché comunque, ad esempio, noci, nocciole, mandorle sono tendenzialmente dei buoni contenitori di nickel. Tra l'altro si sta scoprendo che nonostante questa presenza di nickel all'interno, se il seme oleoso in realtà non è tostato, non è trattato, consente gradualmente di essere poi reintrodotto e rimangiato. Queste sono proprio le evoluzioni della scienza. Però mentre per Tiziana di Modena probabilmente c'è una componente di tipo allergico e quindi deve essere accompagnata da un medico, da un allergologo che l'aiuti anche a recuperare. Però le do una buona notizia, Tiziana. Si sta lavorando anche nelle gravi allergie alimentari, all'arachide, al latte, all'uovo, eccetera, per la reimpostazione, per il recupero della tolleranza. Quindi non perda le speranze. E per Daniela, di scegliere delle sostanze delle noci non trattate, di bilanciarlo perché c'è una reattività crociata tra tutti, quindi non usare solo la noce, magari un giorno la noce, un giorno la mandorla, un giorno la nocciola, e iniziare a piccole parti di reintroduzione. Quindi anche per Daniela credo che si possa andare avanti in maniera positiva. Allora andiamo un po' al cioccolato, qualche minuto di tempo dedicato a questo alimento che va bene in tutte le stagioni, adesso magari la cioccolata calda in estate no, ma insomma è il grande consolatore di ogni nostro momento, felice che viviamo, dottor Speciani. In questo periodo pure lo ritroviamo abbastanza, abbiamo anche questi nuovi panettoni confezionati e conditi in ogni modo, anche con grandi distese, appunto cascate di cioccolato. Come lo dobbiamo consumare? Ovviamente sempre con moderazione, ci mettiamo anche qualche cosa insieme per arginare proprio gli effetti calorici e non particolarmente brillanti, ecco, e qual è il migliore? Circa, però possiamo dire che ad esempio ci sono degli studi belli, per cui non so, un bel lavoro che è uscito sul JAMA Internal Medicine, sul fatto che comunque la presenza nel cioccolato e nel cacao, soprattutto quando è nero in maniera particolare, di alcune catechine, di alcune sostanze, di alcuni flavonoidi che ci sono all'interno, interviene sulla pressione, sul peso, sulla sensibilità insulinica. Quindi addirittura nelle persone che mangiano in modo moderato il cioccolato, soprattutto il cioccolato nero, in realtà c'è un, si può riscontrare un effetto ad esempio dimagrante, no? Cioè che ti aiuta a mantenere questa cosa. Però a me piacerebbe raccontare un aneddoto, se posso. Altro che. Dai, dai, che bello, che abbiamo 3 minuti in più, intanto che aspettiamo l'amico Stefano Polacco. Sì, sì, ma lui è già lì in linea e ce l'ha già addosso. Ciao, Stefano, ciao, che bello, sono contento buongiorno, di vedere. Stefano, buon anno. Sì. Abbiamo fatto la carramba della Befana, ecco, la carramba sì. Che è sorpresa della Befana. Allora, sono velocissimo perché mi piace ascoltare le tue ricette, poi le facciamo spesso insieme, quindi sono contento. Sì. Però nel 2006 all'American Heart Association hanno fatto uno studio importante cercando di per capire come funzionava l'aspirina con la sua azione di protezione sulla situazione cardiologica, e quindi avevano chiesto, usando dei bassi dosaggi di aspirina, a tutte le persone, erano 500 donne e 700 uomini, di evitare qualsiasi intervento con sostanze, cioccolati, dolci, cose eccetera. Ci sono stati 139 ipergolosi che non hanno saputo resistere. Eccoli. E quindi sono stati scoperti, perché in realtà anche il cacao e il cioccolato svolgono delle azioni protettive proprio per queste azioni di sostanze antiossidanti, che sono paragonabili all'azione protettiva sulla, di quella dell'aspirina sulla malattia cardiologica. È carino perché questi li hanno scoperti, no? Hanno detto, beccati, pizzicati, però insomma non avevano fatto nessun danno, tutto sommato, no, anzi al contrario. In modo serendipico di scoprire una cosa nuova sul cioccolato. Che bello, concetto serendipity. Peraltro c'è un film bellissimo che è stato trasmesso proprio qualche sera fa. Quindi il tema è sempre quello, dottor Speciani, moderazione, però possiamo consumare tutto, anche le cose, quelle un pochino più golose, che non siano ovviamente dannose, però la moderazione è la parola d'ordine che ci deve sempre accompagnare in ogni momento della giornata. Che mangiamo. E qualità, certo. Stefano Polato, allora con il cioccolato che cosa ci facciamo in questa Epifania 2017? Allora, ci ho pensato, perché comunque il tema è molto delicato, nel senso che comunque la calza della Befana, comunque i dolci contenuti solitamente e consumati in questa giornata sono spesso e volentieri abbastanza impattanti, soprattutto per i bambini. Quindi io ci ho riflettuto un attimo, a me sarebbe piaciuto pensare alla calza della Befana come un contenitore di ingredienti con il quale fare eventualmente una ricetta assieme ai bambini. Meraviglia. E sfruttare questo momento proprio per divulgare e per cercare di trasferire ai bambini determinati concetti, perché se con i bambini non si gioca non si riesce solitamente a trasferire. Ovviamente abbiamo questo strumento meraviglioso del gioco, quindi utilizziamolo. Esatto, mettiamo dentro la nostra Befana appunto del cioccolato fondente, extra fondente, che sia, mettiamo, dai, facciamo uno strappo alla regola, almeno 85%. Esatto, perché è un po' troppo amaro per loro, poi esatto, lo dobbiamo dolcificare. Esatto, esatto. Poi mettiamo, abbiamo parlato di frutta secca, quindi mettiamo un bel mix di frutta secca ridotta magari in granella, mettiamo anche dell'uva passa, delle bacche essiccate, come dei frutti di bosco essiccati, o anche delle bacche di goji che siano di qualità, che danno un po' di colore. E abbiamo già degli ingredienti per fare ad esempio una barretta al cioccolato. Basta fondere a bagnomaria il cioccolato e aggiungere tutti gli altri ingredienti. Ecco, potremmo mettere anche un sacchettino di cereali integrali soffiati in fiocco, tipo dei fiocchi musica di avena, per le orecchie riso, di Speciani, del riso integrale soffiato. Esatto. Ecco, e in questo modo magari ci mettiamo oggi che siamo anche un po' tranquilli, che siamo a casa dal lavoro e che siamo rilassati, possiamo metterci in cucina a giocare con queste cose, magari cercando appunto di trasferire quelle che sono le qualità e le peculiarità, certo, di questi possiamo fare dei biscottini, insomma delle pallottoline, esatto, un po' composte con ingredienti. Sì. Senza, però ecco, il tema importante è combinare questi alimenti con i nostri bambini, con il gioco, e appunto trasferire loro anche l'importanza della qualità degli alimenti che si consumano. Senti Stefano, invece con tutti questi panettoni e pandori avanzati, tu lo sai che anche questo è un tema sempre verde, un evergreen in questo periodo, abbiamo qualche cosa di nuovo che possiamo inventarci rispetto agli anni passati? Allora, sì, per quanto riguarda il panettone, a me piace sempre abbinarlo, ad esempio, con nelle ceste si trova sempre anche della frutta esotica, no? Tipo l'ananas, che magari rimane lì e rischia di ammuffire, rischiamo di buttarlo via. Sì, certo, perché non sia mai che si consumi in abbondanza ananas, che depuri un po' in questo periodo, andiamo tutti esatto, di gran calorie, certo. Esatto, quindi riscaldiamo semplicemente la fetta di panettone, magari la tagliamo in modo omogeneo, Poi ritagliamo anche l'ananas, ad esempio facciamo un rettangolo di panettone, un rettangolo di ananas e lo intervalliamo, riscaldiamo il panettone su una padella antiaderente, semplicemente riscaldato, non bruciato, attenzione, riscaldiamo anche un po' l'ananas, sempre nella stessa padella, e ci aggiungiamo dello zenzero e potremmo aggiungere anche del curry, ad esempio, ok? Ma un po' di frutti di bosco e facciamo, io l'ho chiamato lingotto perché alla fine intervallandolo sembra che un lingottino d'oro. Un lingottino d'oro. Beh, il regalo dei Re Magi, no? Magari troviamo esatto. E poi lo decoriamo con dei frutti di bosco. E l'altra soluzione, invece, per quanto riguarda il pandoro, a me piace sempre abbinarlo agli agrumi. In questo caso facciamo in versione salata, quindi facciamo dei cubettini di pandoro, ci aggiungiamo degli spicchi di arancia e di mandarino, tagliamo in modo molto sottile il finocchio e condiamo con delle mandorle anche, olio extravergine di oliva, un po' di sale e del pepe rosa, a me piace abbinare il pepe rosa e ovviamente del sale marino integrale. Queste combinazioni con il pandoro? Semplicemente mettiamo in una coppetta e lo serviamo ad esempio come antipasto. Attilio, promuoviamo? Buono, promosso. Se uno ha mangiato prima tre mandorle va benissimo. Ecco, certo, esatto. Quindi panettone all'ananas e pandoro agli agrumi. La mandorla alla mela la mettiamo all'interno. E poi insomma qualche spizzico di zenzero qua e là e non fa male a nessuno. Io vi ringrazio veramente tanto per avermi fatto compagnia in questa giornata dell'Epifania. Metteremo queste ricette naturalmente sul nostro profilo Facebook, sul nostro sito, perché gli ascoltatori poi replicano sempre molto volentieri. Attilio, grazie per essere stato con noi. Buon 2017. Grazie. Stefano, grazie anche a te, a presto, buon anno. Noi abbiamo terminato, io ho terminato Cuore Denari, ma ritorno lunedì con Nicoletta. Adesso c'è il giornale radio, vi riaggiorno presto sulla borsa.